Inter Maratta. Sanctus, Sanctus Dominus. Benvenuti. Benvenuti cari ascoltatori e cari ascoltatrici di Radio Cage. Benvenuti dove? Radio Cage. A testa croce show, naturalmente. Ci speriamo di alternativa. No? Esatto, naturalmente, non ci permetteremo di insegnare religione nelle scuole. E ci scusiamo per il ritardo nell'inizio, ma insomma, siamo anacronistici, sì, quello sicuramente, ma siamo anacronistici per definizione, no? Sì, siamo collocati fuori dal tempo e dallo spazio. Esatto. Come tutte le cose più belle. Precisamente. Bene, che giorno è oggi? Oggi è il 12 aprile ed è una giornata importante per vari motivi. Perché giovedì, innanzitutto perché giovedì, no? E perché ci siamo noi, esatto. In radio, su Radio Cage. E c'è con noi naturalmente il nostro Fede, come al solito, alla regia. Tutti tornati dai bagordi di Pasqua, fateci sapere come avete passato Pasquetta, com'era il cioccolato nelle uova quest'anno. Sì, e com'era la sorpresa. Esatto, scriveteci le sorprese più belle e quelle più brutte a testacroceshow@gmail.com. Oppure su Skype testacroceshow. Benissimo. Il nostro contatto. Ovviamente non ce ne fregherà niente. Delle sorprese ovviamente non ce ne fregherà niente, però noi infatti vi ascoltiamo. A meno che non ce le mandiate. Potrebbe essere insieme al cioccolato avanzato, possibilmente. No, e vi ricordo anche il blog testacroceshow.blogspot.com, sul quale trovate anche i podcast fino alla 20ª puntata, cioè la precedente, tutti poi. Un record. Pensate un po'. Mai toccato. È stata una pausa. Mai toccato prima. Fantastico. Assolutamente. Allora, questa puntata vogliamo iniziare in modo insolito con il domandone esistenziale, così. Posticipiamo l'almanacco. Sì, sorprendiamo i nostri ascoltatori. Sì, allora per il domandone esistenziale mettiamo un po' di sottofondo. Dai, no? Sì, ci sto. Un po' di sottofondo di sitar, strumento che proprio facilita la meditazione, sì. Veramente appropriato. E ci andiamo a leggere un passo dal Kitab Iqdas, ovvero sia il libro più santo, che è un libro del canone Bahai, una religione recente di cui forse avremo modo di parlarvi anche in futuro, ma chi lo sa. Comunque, dunque, la domandona assoluta è introdotta proprio da un versetto che è il numero 10 in questo caso. Vi abbiamo comandato di pregare e digiunare dall'inizio della maturità. Questo è ordinato da Dio, vostro Signore e Signore dei vostri avi. Egli ne ha dispensato coloro che sono deboli per malattia o età, in segno di grazia della sua presenza, ed egli è il perdonatore, il generoso. Dio vi ha concesso di prostrarvi su qualsiasi superficie pulita, perché abbiamo abrogato a tal proposito le limitazioni prescritte nel libro. In verità Dio è a conoscenza di cose di cui voi non sapete nulla. Chi non trova acqua per le abluzioni ripeta 5 volte le parole «Nel nome di Dio, il più puro», e poi proceda nelle devozioni. Questo è il comando del Signore di tutti i mondi. Nelle regioni dove il giorno e la notte si allungano, gli orari della preghiera siano calcolati per mezzo di orologi e altri strumenti che segnano il trascorrere delle ore. In verità egli è l'espositore, il saggio. Vi abbiamo sciolti dall'obbligo di eseguire la preghiera dei segni. Al verificarsi di eventi naturali che incutano timore, richiamate alla mente la possanza e la maestà del vostro Signore, colui che tutto ascolta e vede, e dite: il dominio è di Dio, Signore del visibile e dell'invisibile, Signore del creato. È stato ordinato che la preghiera obbligatoria sia eseguita da ciascuno di voi individualmente. Fuorché nel caso della preghiera per i defunti, l'uso della preghiera in congregazione è stato abrogato. In verità, egli è l'ordinatore, l'onnisciente. Dio ha dispensato dalla preghiera obbligatoria e dal digiuno le donne che hanno le ricorrenze mensili. Dopo aver eseguito le abluzioni, rendano invece lode a Dio, ripetendo 95 volte fra un mezzogiorno e l'altro: sia glorificato il Dio, Signore dello splendore e della bellezza. Così è stato decretato nel libro, se siete di coloro che comprendono. Ecco qua, queste erano le parole di Baha'u'llah. Ma anche le parole di Dio, in quanto Baha'u'llah ne è sua manifestazione. Per chi ci crede, naturalmente, secondo la religione Baha'u'llah. Rivelazione che è avvenuta nel 1844, diamo questa anticipazione. Sì, il precursore di Baha'u'llah, detto il Bab, nato proprio in quel quasi periodo. Tuo omonimo. Se verrà un Gabaullah, tu sarai il precursore. non essere blasfemo. No, assolutamente. Dunque, come avete notato, in questo passo ci sono tanti dettami, anche molto precisi, con valori numerici di numero di ore, numero di ripetizioni riforme, non sono, si parla di cose che vengono abrogate, che sono state abrogate dalla nuova rivelazione, perché una delle cose centrali nel Baha'i, nel Baha'ismo, è proprio il fatto che la nuova rivelazione viene per aggiornare quella precedente. E dunque la domanda che vi pongo è questa: cosa vi attendereste dal vostro Dio? Un messaggio esistenziale e immutabile o dettagliato e continuamente aggiornato? Questa è una domandona. Beh, una domanda che coglie il problema, no, del relativismo proprio, no? Perfino la rivelazione è relativa. Esatto. Io mi sento crollare il terreno sotto i piedi, non ho più certezze. Però al contempo si può pensare che appunto il messaggio debba essere necessariamente spiegato in modo che le persone dell'epoca lo possano capire, quindi nei termini legati all'attualità. Certo, come sostengono tanti, certamente. Comunque ovviamente anche stavolta vi preciso, insomma, anche se non credete in Dio, fate uno sforzo di immaginazione, quindi cosa vi attendereste, vi chiedo appunto al condizionale, così potete rispondere lo stesso. Benissimo, vi ricordiamo che la prima domanda di questo ciclo, di questo concorso esistenziale, era: qual è il vostro senso della vita? E abbiamo una risposta di Valentina da Novara, che ci ha scritto una lunghissima risposta. Io la ringrazio e ne leggo un breve stralcio. Lei ci risponde: diventa ciò che sei, disse Nietzsche. Sembra apparentemente un consiglio semplice, quasi scontato e banale, ma poi nella realtà è ben diverso. Diventare ciò che si è, senza farsi condizionare, plasmare, abbattere, demotivare nel corso della vita, non è facile. Da bambini sappiamo cosa siamo e cosa vogliamo, perché il nostro pensiero è puro, non condizionato da paure e sensi di inadeguatezza. Poi, diventando grandi, aggiustiamo lungo il cammino il tiro, perché spesso gli eventi esterni ci condizionano a doverlo fare. È lì che entra in gioco il mio senso della vita, dimostrare a me stessa che nonostante tutto io sono ciò che voglio. Non sono frutto degli eventi esterni, dell'ambiente dove sono nata, non sono il risultato di un fato ostile. Io sono quello che ho voluto e saputo essere. Ma ecco, interessante, sì, anche se secondo me in realtà i bambini sono molto molto influenzati. Anche già, secondo me. Infatti io da piccolo volevo fare il vigile, per esempio, il vigile, il carabiniere. Io volevo fare Indiana Jones, ecco, da piccolo, sì. Vabbè, c'avevo questo sogno. Non è un mestiere, è archeologo. Vabbè, c'era archeologo, diciamo, sì, non... quello, insomma, quello da salto, coglioni, capito? È mica un archeologo, sì, qualunque. Sì. Certo. E a proposito e guarda dove sei finito. E guarda dove sono finito. Oh, a proposito di cosiddetti, no? Sì. Quelli che Maroni, quindi bravo, no. A proposito di, no, non parliamo, no, di politica, no, infatti, cioè, no. Vogliamo partire in quarta, sì, infatti l'almanacco ormai passa al blocco, certo, successivo, certo. E ci andiamo a sentire un pezzo proprio bello grintoso, infatti il gruppo si chiama Loudness, quindi proprio volume elevato. Questo è un brano tratto dall'album The Law of Devil's Land del 1983 e si intitola In the Mirror. Questo è un gruppo giapponese, preciso. Eccoci qua. Mamma, come sono arrabbiati questi giapponesi. Erano, non so se sono ancora. Sono diventati, no, però, italiani, vabbè. No, però vabbè, erano nel 1983, erano molto incacchiati. Ah, ecco. Però ecco, penso, sì, lo siano ancora. Ho visto una discografia sterminata, tipo più di 20 album, forse anche 25-30. Ma comunque tutte le band giapponesi che fanno rock, insomma heavy, sono sempre molto arrabbiate. Sì, vabbè, cioè, hanno una, sì, tradizione, sì, una, sì, di, sì, sì. Proprio una caratteristica dei giappi. Esatto. Bene, andiamo allora con l'almanacco. L'almanacco, no? del giorno corrente, oserei dire. Del giorno oggi. Esatto. Del giorno oggi. Lo sigliamo? Lo sigliamo, lo, sì, sigliamo. Sì. Allora mandiamo la solita sigla, eccola qua. Ecco, già risuonano le note. Sì, esatto. Di Guillaume de Machaud. Guillaume de Machaud. Sì, no, mi interessa ricordarlo perché... Sì, è un bel suono, vero? Allora, oggi 12 aprile si celebrano San Zeno da Verona, San Giulio I Papa, San Saba il Goto, Sant'Alferio, Santa Vissia di Fermo, Sant'Erchembodone. Erchembodone. Sì. Bello. E poi ricordiamo la scomparsa di nel 1782 di Metastasio, il poeta e librettista italiano, di Franklin Roosevelt, il 32esimo presidente degli Stati Uniti, che morì a 63 anni. nel 45, e di Sugar Ray Robinson, il campione dei pesi massimi, che morì nel 1989. Ecco, invece nacquero il 12 aprile Mahavira. Bravo, ecco, sì, lo vedo che Gab era già sul pezzo, su quello. Sì, sì. È il 24esimo Tirthankara del Jainismo. Esatto, esatto. E sul Jainismo, vabbè, ci sarebbe da dire tantissimo, quindi non diremo nulla. E poi il compositore, grande compositore barocco italiano, Giuseppe Tartini. E è il compleanno di Gillo Dorfles, David Letterman, Marco Berri, Lisa Gerrard, Flavio Briatore e Marcello Lippi. Gillo Dorfles è un critico d'arte, e Lisa Gerrard è una bravissima cantante e cantautrice, penso inglese. Beh, ricordo anche la... credo il compleanno, ecco, ora non vorrei fare una gaffa, comunque sicuramente la nascita di Montserrat Caballé, il soprano spagnolo, e la soprano ovviamente, e poi di Tom Clancy, scrittore americano di spionaggi, complottismo, credo, roba cose di sì, cose strambe. E poi non so se hai ricordato, ma non sarebbe stato grave se non avessi fatto, Flavio Briatore. Sì, Briatore, cioè. Ricordate Andy Garcia? No, attore, vabbè, un attore cubano. E Shannon Doherty, attrice, anche lei è abbastanza nota. Bene. Briatore, come vogliamo definirlo? Miliardario? Ma direi un sobrio uomo d'affari, sì, che non ama mostrare le sue ricchezze. Bravo, soprattutto sobrio. E soprattutto uomo di cultura. Ah, certo, certo. Sì, sì. È un gran bell'uomo, perché è sempre in compagnia di gran belle donne, quindi necessariamente sicuramente deve essere una bella essere... e interessante. Esatto. Dunque, andiamo con un po' di notizie. Sì, dai, un po' d'attualità. Dunque, allora, dal Jewish Daily Forward, che dal nome si può intuire è un giornale ebraico. Dunque, lo sceneggiatore Joe S. Zeras ha scritto in una lettera rivolta a Mel Gibson che l'attore e regista odia gli ebrei dopo che la Warner Bros. Ha rifiutato una sua sceneggiatura per il film Maccabees, cioè i Maccabei. Intanto dico qualcosa sui Maccabei brevemente per capire chi sono. Intanto il nome significa martellatori, e furono una famiglia ebraica che guidò una ribellione contro il Seleucide Antioco IV Epifane nel 175 a.C. circa, e per riconquistare Gerusalemme. Poi questo evento viene ricordato durante la Nukkà, quindi un evento importante. Diedero poi vita alla dinastia che in seguito regnò sulla Giudea con il nome di Asmonei. Dunque, torniamo alla notizia. Allora, la lettera pubblicata su TheRap.com da Joe Esteras, rivolta a Mel Gibson, accusa Gibson di non volere in realtà realizzare il film e di averlo sabotato, dicendo: «Sono giunto alla conclusione che il motivo per il quale non vuoi realizzare The Maccabees è il peggiore possibile. Odi gli ebrei». Esteras ha scritto che Gibson voleva fare il film solamente per convertire gli ebrei al cristianesimo. Ah, che è quasi dire che odia gli ebrei. Beh, sì, sì. No, ma non è solo per questo in realtà, poi lo vediamo tra poco, ecco. Warner Bros. Nel frattempo ha annunciato mercoledì scorso che non terrà più in considerazione la sceneggiatura di Esteras e che stava valutando cosa fare del progetto. Gibson poi ha risposto ovviamente a Esteras, solo che ha scelto un giornaletto un po' più modesto, cioè Los Angeles Times, in cui ha detto che la sceneggiatura di Esteras era stata consegnata in ritardo e che il contenuto era sotto gli standard e una significativa perdita di tempo. Ah beh, quindi... quindi scambio di fuoco. Sì, sì, sì. E poi continua Mel Gibson: «Contrariamente alla tua affermazione che stavo lavorando a Maccabees per ripulire la mia reputazione, sto lavorando da 10 anni al progetto, annunciato pubblicamente 8 anni fa. Voglio assolutamente fare questo film. È solo che né io né la Warner vogliamo fare il film basandoci sulla tua sceneggiatura». Ecco. gliel'ha cantati a questo povero Esteras. Dunque, vari gruppi ebrei, proseguo nella lettura del Jewish Daily Forward, hanno criticato il coinvolgimento di Gibson nel film sulla vita di Giuda Maccabeo, che è il leader dei Maccabei, Giuda si chiamava per l'appunto, quando nel settembre scorso firmò il contratto con la Warner. Il film La Passione del 2004 fece arrabbiare molti appartenenti alla comunità ebraica, che non ritennero troppo mirato nel trasmettere il messaggio che gli ebrei fossero colpevoli dell'uccisione di Cristo. Casualmente. Beh, sì, sì. In seguito peggiorò la sua situazione, questo non lo sapevo fra l'altro, lanciando invettive antisemite da ubriaco a Mel Gibson. Sì, sì, sì, io l'avevo sentito. Durante un confronto con un ufficiale di polizia, che non so, forse era ebreo o comunque in ogni caso. E, dunque, il rabbino Marvin Heer, fondatore e decano del Simon Wiesenthal Center, si è detto soddisfatto che il progetto fosse in stallo, perché la storia degli ebrei sarà migliore se Mel Gibson non vestirà i panni di Giuda Maccabeo. Vabbè, vestirà i panni anche nel senso figurato, non credo che sia un attore nel film. Beh, sicuramente è un attore. Programmazione. No. sì, diciamo di sì. Ok, è vero, si può discutere. No. Ma diciamo che dopo Braveheart è passato un po' alla lato scuro al della forza. No? Sì. Sì, bene. Il lato luminoso, anzi, potrei dire, della forza, con The Passion. Sì, beh, criticato per la tanta violenza comunque. No, ma non per quello, no. Semmai per la pesantezza infinita di quel film. Ho trovato di una pesantezza unica proprio. Bene, allora, vi vorrei presentare un personaggio. Lo farò con una notizia che però vi voglio reintrodurre con un brano musicale. E già che oggi è il compleanno, insomma, sarebbe stato il compleanno di Giuseppe Tartini, vorrei così farvi sentire la celebre sonata in sol minore chiamata Il Trillo del Diavolo. Tartini nacque nel 1692, morì nel 1770 e racconta così, diciamo, il modo in cui gli venne l'ispirazione per questa sonata in sogno. Una notte sognai che avevo fatto un patto e che il diavolo era al mio servizio. Tutto mi riusciva secondo i miei desideri e le mie volontà. Erano sempre esaudite dal mio nuovo domestico. Immaginai di dargli il mio violino per vedere se fosse arrivato a suonarmi qualche bella aria. Ma quale fu il mio stupore quando ascoltai una sonata così singolare e bella, eseguita con tanta superiorità e intelligenza che non potevo concepire nulla che le stesse al paragone. Provai tanta sorpresa, rapimento e piacere che mi si mozzò il respiro. Fui svegliato da questa violenta sensazione e presi all'istante il mio violino, nella speranza di ritrovare una parte della musica che avevo appena ascoltato, ma invano. Il brano che composi è, in verità, il migliore che abbia mai scritto, ma è talmente al di sotto di quello che mi aveva così emozionato che avrei spaccato in due il mio violino e abbandonato per sempre la musica se mi fosse stato possibile privarmi delle gioie che mi procurava. E allora lasciamo giudicare a voi Il Trillo del Diavolo. Insomma, il diavolo ci sa fare Ci sa fare. Beh, si sa che il diavolo suona il violino, lo sanno tutti. Sì, sì, fa i violini, ma non le cornamuse, il diavolo, come si ma dire, non gli archetti. No? Senti un po', fra l'altro, questa storia, su come è stato composto, mi ha ricordato moltissimo, probabilmente è una citazione, quella che fanno nel film Tenacious D, in cui questi due ragazzi compongono una canzone sotto l'effetto di stupefacenti, però utilizzando un plettro che è una parte del corpo del diavolo sostanzialmente, no? E poi il giorno dopo in realtà si sono dimenticati com'era questo pezzo bellissimo che avevano composto e quindi fanno una canzone che si chiama Tribute, che è un tributo a quella canzone, ma non si avvicina neanche lontanamente alla bellezza che avevano raggiunto in quel momento in cui non avevano potuto registrare perché non avevano i mezzi per farlo. Sì, sicuramente è una citazione, sì, è una rivisitazione. Senz'altro. Poi comunque, interessante. Comunque si dice che non sono violinista, quindi non so, che questo sia uno dei pezzi più difficili tecnicamente da eseguire. E ho avuto la fortuna di vederlo eseguito da Uto Ughi, grandissimo esecutore, sì, grandissimo violinista. A casa tua, no? Naturalmente, sì. Certo, nel giardino della vecchia casa. Allora, una notizia di ABC News del 5 aprile scorso, che introduce appunto un personaggio che io già conoscevo in realtà. Allora, ci sono queste tre ragazze, belle ragazze tra l'altro, se poi vedrete le foto su internet sono davvero notevoli, giovani. Bryn, Tess e Savannah di Phoenix sono cinture nere di karate, esperte cavallerizze, fan dei musical e fanno esorcismi. Tutte e tre insieme sono una... vabbè. L'ho già far... No, vabbè. Siamo soltanto ragazze normali che fanno qualcosa di straordinario per Dio, dice Bryn. Dopo che avrete visto un nostro esorcismo di persona, qualsiasi vostro dubbio in merito svanirà. Ma penso anch'io, ma ci sono i video reportage? Video di loro tre non lo so, sicuramente ci sono delle interviste, video di interviste a loro. Bryn, 17 anni, è la leader del gruppo, chiamata dalle altre The Enforcer, cioè colei che impone, colei che usa la forza. Sì, sì. Savannah, 20enne, è nota come la compassionevole. Infine c'è Tess, 17enne, che recita nei musical locali, detta dalle altre il mezzo maschio per i suoi modi decisi. Okay. c'è una guerra che va avanti quotidianamente contro di noi, Satana ci odia, noi conosciamo il nemico e il modo in cui ci attacca e sappiamo difenderci, dice Brin. Allora, per Bacco. Però loro hanno un maestro eccelso, il loro maestro è il padre reverendo Amort, no? Sarebbe, no? Sarebbe, ma è uno quasi peggio di padre. È il reverendo Bob Larson, che io conoscevo già, che afferma di aver officiato più di 10.000 esorcismi negli ultimi 30 anni. Chiamato dalla stampa The Demon Slayer, cioè il distruttore di demoni. Cioè, un nome da gioco di ruolo. Esatto, c'entra anche con i giochi di ruolo. Se andate sul suo sito www.boblarson.org vedrete foto di Bob Larson con il crocifisso in pose molto marziali, no? Larson afferma che il 50% della popolazione è probabilmente infestata da demoni in un qualche modo e le sue ragazze sono il suo fronte d'assalto. Equipaggiate con croci, bibbie e acqua santa, le ragazze richiamano il demone nel soggetto e questo apparentemente lascia il corpo della persona. Brin afferma di poter capire se un soggetto è posseduto soltanto guardandolo negli occhi. Allora, questa è, diciamo, il nuovo gruppo, sembra quasi un telefilm americano. Ma sai, veramente, tipo Charlie's Angels. Esatto, precisamente, sì. Infatti, soltanto che loro dicono che è davvero, fanno esorcismi. Allora, no, sul sito di Bob Larson, tra l'altro, c'è un test che si intitola così: hai un demone? Clicca qui per verificarlo con il Demon Test. È online, non sto scherzando. Ci sono delle domande, io ho fatto questo test e ovviamente sono risultato ad alto rischio di possessione. Eh beh, certo, anche perché uno che ha una maglia, voi non vedete con scritto Satan inside. Esatto, non per niente. E poi c'è anche un link alla International School of Exorcism, se qualcuno di voi è interessato a imparare come fare esorcismi potete rivolgervi a Bob Larson. E un altro link costituito da una foto delle tre ragazze con in mano delle croci, anche loro in pose marziali, intitolato Meet the Teenage Exorcist, quindi incontrate le esorciste teenager. Sì. Bob Larson è anche nostro collega perché è telepredicatore e radiopredicatore, ha tenuto vari shows, anche appunto televisivi, in cui si è concentrato principalmente sul rapporto tra satanismo, musica rock e giochi di ruolo. Quindi ho detto tutto. e ha dimostrato che non c'è alcun legame. No, lui afferma che il legame c'è, ovviamente. E che i giochi di ruolo e rock portano a Satana, naturalmente. Ma si pagano queste prestazioni? Naturalmente, infatti, cioè, volessi chiamare così casualmente queste tre fanciulle per vedere se sono posseduto, no? No, per vedere se sei posseduto c'è il test. Poi... No, vabbè, insomma, per farmi guardare negli occhi, no? Così è più sicuro. Ma no? Quello non saprei. Di sicuro gli esorcismi non li fanno gratis perché, tra l'altro, seriamente Bob Larson ha avuto problemi con la stampa e con, diciamo, gli agenti del fisco perché, insomma, dichiara una certa cifra e però probabilmente guadagna molto di più, ma si parla comunque di cifre molto alte. Comunque. Guadagni molto alti, sì. No, comunque veramente voglio, insomma, più presto informarmi di più e sapere se fanno anche appunto visite oltreoceano. Io sarei molto curioso di una cosa, cioè di intervistare padre Amort su Larson e vedere cosa dice. Ne parla mal, dice che è il diavolo. Beh, ma è molto probabile, perché, sai. Che è troppo mediatica come cosa comunque per sì, Amort. Sì, decisamente, ma in perfetto stile americano d'altra parte. Sì, infatti. Quindi comunque è molto molto inferiore alla nostra, insomma, alle truppe che forgiamo qua in Italia, tra cui appunto il nostro amico Gabriele Amort. Senz'altro. Va bene, direi che andiamo con un'altra pausa e poi andiamo con la nostra fantastica novità assoluta. Benissimo, allora. Dunque, che ci possiamo ascoltare? Ci ascoltiamo un pezzo che è una cover in realtà di Michael Jackson, di Beat It, che è la famosa canzone Beat It, come la vuoi chiamare. E questa è una cover dei Lemur Voice del 1999, un gruppo olandese che fa progressive, ma in questo caso non si tratta di progressive rock, è una cover un po' particolare, ora lo scoprirete. Occhio che vi avvicina a Satana questo. Don't you ever come around here. The bottle, see a face, you better disappear. Bidet. Bidet, e noi siamo qui. No? Siamo qui, siamo qui. E dunque, intanto vi comunichiamo una notizia importante per i nostri tutti i nostri ascoltatori fedeli. E abbiamo un cambio di orario. Dalla prossima settimana andiamo in onda alle 19.30 esatto. fino alle 8.30. Esatto, sì. Sempre un'ora comunque. Sempre un'ora, ma. Si parte mezz'ora prima. Mezz'ora dopo. E quindi partiamo più o meno più a stessa ora di... allora, stessa ora di sempre. Esatto. Infatti, cercheremo di essere più puntuali, ma sì. perché se no si va veramente verso orari spiacevoli. Sì, ecco. Cioè. Bene, volevi fare sì, una segnalazione? Sì, sì, assolutamente sì. En passant, ricordo agli ascoltatori i nostri contatti, l'email è testacrocesshow@gmail.com. Sì, giusto, e Testa Croce Show, il contatto Skype, testacrocesshow.blogspot.com, il blog. Ecco, quindi scriveteci tutto quello che pensate su quello che stiamo dicendo e tra cui anche una cosa che ci tenevo a dire sul giorno di oggi, sul 12 aprile, che nel 12 aprile 1989 la Corte Costituzionale stabilì che la laicità è un supremo principio costituzionale. I cittadini non devono essere discriminati per motivi di religione e non si deve nemmeno limitare la libertà di non professare alcuna religione. È stata una data importante per la laicità in Italia. Beh, direi di sì. Ma ricorreva proprio oggi? 12 aprile, ah, okay. sì, 12 aprile del 1989, quindi di recente tra l'altro. Sì, sì. Cioè nella Costituzione, nella Costituzione non è diciamo espressamente detto questo, però diciamo che la Corte Costituzionale lo ha stabilito tenendo conto del testo della Costituzione sì, e sì, ha stabilito sì, sì. appunto in questa sentenza che ho citato testualmente praticamente il principio della laicità che dovrebbe guidare sì, il sì, comando sì. in Italia. Assolutamente, bene. È il momento, è il momento della novità assoluta. Novità. Assoluta. Temuta, tanto, sì. tanto in attesa perché stavolta non abbiamo annunciato nulla, però appunto parliamo di culto, sostanzialmente del culto della topa. Cosa non si può sì, dire culto, cioè volevo dire no? non si può dire non si può dire culto in radio. Ah, giusto. Però è così sostanzialmente, ma in senso un po' zoologico però. Devo dire. D'accordo. Parliamo del culto di Gadget Hackworth, meglio conosciuta in Italia come Scheggia, la topolina bionda del cartone animato Chip e Chop Agenti Speciali. Forse qualcuno l'ha visto quando era più piccolo, è andato in onda intorno agli anni, nei primi anni 90, 1989-1990. Ma guarda, probabilmente l'ho visto anch'io, ma l'avevo completamente rimosso. Ma sai che anch'io fino a che non ho... Esatto, sì. Il titolo originale è Chip and Dale Rescue Rangers, però in Italia Chip e Chop Agenti Speciali. Praticamente è della Walt Disney, ovviamente, questo lo sapete. Protagonisti classici roditori Chip e Chop, affiancati da tre nuovi personaggi, però tra cui Monterey Jack, che è un topo forzuto dipendente dal formaggio, che poi mi sembra normale, come tutti i topi. Infatti poi c'è Zipper, che è una mosca, e poi proprio Gadget Hackworth, che è l'ispettore, che è una topolina bionda geniale, inventrice, meccanico e pilota del team. Ecco, prima di andare ulteriormente avanti vi faccio sentire la sigla. Dai. Sì. Che ci introduce proprio la sigla italiana per di più, che è anche breve, quindi ce l'ascoltiamo tutta. Cerca, trova, ad ogni crimine i due piedi piatti con grande abilità. Quanti ricordi. Questo è proprio un'entrata spirituale. Sì, sì, ci introduce degnamente certo. a questa religione. Siamo già in proprio circonfusi di spiritualità. Sì, quindi sì. Di cosa parla questo culto? Questo culto intanto è nato in Russia recentemente, perché non so la data precisa, ma evidentemente in Russia è uscito più tardi questo cartone animato, che ormai è stato cancellato dalla programmazione da tantissimi anni, non solo negli Stati Uniti ma anche in Italia, e anche dai nostri ricordi, come abbiamo appurato ricordi, prima. Infatti nonostante la sigla sia bellissima, sì, carina, molto carina, sì, sì. E dunque cosa è successo? Questi fan di questo cartone animato addirittura hanno deciso di idolizzato questo personaggio femminile del team di Chip e Chop, e fino a fondare addirittura una religione basata su di lei. Ora cosa fanno praticamente? Vanno a giro per la città attaccando poster, figurini con l'immagine di Gadget. La chiamerò Gadget perché vabbè, il nome comunque è il nome ufficiale originale, sì. E considerano ovviamente effigi sacre qualunque immagine, ora se ne fanno di poster a dimensione naturale, anzi direi più che naturale, visto che sono gigantografie. Sì, sì. Ci sono molte foto in rete, si possono trovare con facilità, di questi adoratori di gadget. E poi si riuniscono in celebrazioni in cui discutono quanto ella sia maestosa, compongono canzoni a lei dedicate, le cantano insieme. E poi vabbè, fanno delle scene, perché poi le scene ci vogliono sempre quando si celebra qualcosa. Eh beh, certo, assolutamente, il momento conviviale è importantissimo. E dunque vi leggo, prima di passare a di fare un piccolo stacco musicale, vi leggo cosa dice uno dei suoi fedeli, riportato su un blog. Ella è l'essere divino, la parente più intoccabile e perfetta di Dio in terra. Perché la amo? È una domanda stupida. Come potrei non amare la dea? È disciplinata, rigorosa, carina, ottimista. Il suo livello di conoscenza tecnologica è irraggiungibile per qualunque essere mortale. Ma io... cioè non... io non ricordo la trama del cartone, ma ho letto che lei effettivamente ha questa caratteristica di saper aggiustare qualunque cosa. Proprio. È un MacGyver al femminile. Sì, sì. Inventare strumenti, no? Esatto. Ma io sono allibito, cioè non sì, riesco a capire, quindi sì, ma poi peggioriamo andiamo a peggiorare, sì, bene, sì, bene, sono contento. Allora prepariamoci psicologicamente, sì. Cercheremo di capire meglio o di non capire meglio. Intanto carichiamoci con un brano dei Baby Woodrows, What You Gonna Do. Rieccoci in studio a parlare di topa. A parlare di topa, beh. Un argomento, sì, che ci avvicina a Satana, perché, secondo me, tra gli altri che tanti altri che abbiamo toccato, cioè, oggi. Anche questa canzone che appena anche questa canzone naturalmente tantissima a Satana. No, beh, per chi si fosse collegato adesso, parliamo del culto di Gadget Hackworth, Topolina dei cartoni animati, del cartone animato Chip e Chop, agenti speciali. Se non ve lo ricordavate, ve lo siete ricordato adesso, sappiate, sì, che è normale, perché è successo anche a noi. E sappiate che fra l'altro per motivi, insomma, di informazione, sono andato su YouTube a cercare qualche episodio, no? E ho trovato che ci sono tutti gli episodi in italiano, quindi potete vedere tutta la serie, eh? Ma non lo so, visto che c'era un episodio numero 70, suppongo ci siano anche i precedenti. Fantastico, me li andrò a guardare tutti stasera, ecco. Bene, dunque andiamo avanti a parlare di questo culto, sì. Ecco, intanto diciamo che già prima che si formasse questo culto c'era comunque abbondavano discussioni in rete di fan che trattavano argomenti anche un po' scabrosi riguardanti questa gadget, cioè con chi si sarebbe dovuto secondo loro accoppiare, con Chip o con Chop. Beh, effettivamente, cioè, c'è un bel polverone. Poi c'era centinaia di fanfiction, è amletico, sapete cosa sono, certo, no? I fanfiction, sì, sì, sono... lo sanno tutti, lo sanno tutti, ma in realtà diciamolo, dai. Sì, sono delle praticamente delle storie spesso a fumetti, comunque, che fatte dai fan, che mandano avanti i filoni della storia, spesso tenuti un po' in disparte, spesso anche con tematiche sessuali o amorose, intrecci di questo genere, ecco. E in più, se digitate Gadget Hackworth su Google, escono fra le prime molte immagini che dipingono in pose scabrose, quindi effettivamente ci deve essere un interesse, cioè, anche prima che nascesse questo culto c'era un interesse per questo personaggio. Vediamo appunto cosa ci dice un fedele, ci racconta sostanzialmente la sua conversione a questo culto. Su EnglishRussia.com ho trovato. Sono russo, il mio inglese non è molto buono. Ho trovato un'immagine di gadget sul web un paio di giorni fa su un celebre sito di intrattenimento, con un piccolo articolo che spiegava chi fosse e la sua storia. Da quel momento mi sono letteralmente innamorato di lei. Guardavo il cartone animato quando avevo 5 o 6 anni, ma persino adesso non mi ricordo nulla a parte la sigla e non mi interessa adesso. Cioè, quindi c'è anche questa caratteristica di questo cartone che scompare dalla memoria, c'è qualche subliminale, sì, dentro, sì. Ma c'è Satana che legge, sì, in questo, sì. Perché... infatti l'unica cosa che rimane è la lussuria per questo e la venerazione per questo topo. Vediamo come continua questo fedele. Ma Gadget mi ha letteralmente devastato. La sua intelligenza, gentilezza, unita al suo look da ragazza aggiusta tutto, è così allettante. Le immagini di lei tratte dalla serie animata sono magnifiche, ma ci sono così tante immagini di fan in cui sembra addirittura la femmina perfetta, ideale. Nel nostro sporco mondo è l'unico angelo. Ho scaricato un sacco di immagini in pochi giorni e ho continuato a guardarle e riguardarle senza poterle staccare gli occhi di dosso. Comprendo perfettamente le persone che hanno fondato il suo culto, perché Gadget ricorda a tutti noi che la bellezza senza fine esiste in questo mondo. La ragazza ideale che non incontreremo mai nella realtà. Ti amo, Gadget. Ma io veramente stiamo toccando con mano gli abissi della mente umana. Lo so. E per fortuna siamo vicini alla fine, perché comunque ci sono pochissime informazioni, per forza di cose, perché il gruppo di fedeli è sparuto, penso sia una decina al massimo. In tutto il mondo. Anche se in realtà magari poi si è sparso nel frattempo, da quando, certo, insomma, dalle notizie che ho io. E poi tanti magari non lo dicono, perché io mi vergognerei, sinceramente. Direi di sì. Però vi leggo comunque alcuni commenti che ho trovato all'articolo, che sono interessanti, perché è un punto di mettono in luce un punto di vista interessante. Allora, uno dice: le persone hanno venerato cose più stupide per ragioni meno valide. Vedi, 2000 anni in cui si è fatto qualcosa che dei ricchi romani con dei cappelli strambi ci hanno detto di fare. E si riferisce, penso, al Vaticano. Ricchi romani. Ah, sì. Ecco, ora ci sono arrivati. Romani. Sì. Vabbè, e poi un altro, beh, che non è del tutto errato. No, ma però, sono d'accordissimo, nel senso, abbiamo già toccato il rapporto tra umorismo e religione, sì, nella puntata sulla chiesa di Elvis, e poi questo ci riconduce questa mia opinione personale, naturalmente, diciamo, alla consistenza fumettistica delle, sì, credenze religiose. Ecco, ma e poi appunto un'altra riflessione simile, però anche più, forse più calzante, è questa. Allora, perché si dice anche che potrebbe essere uno scherzo, ovviamente, una religione, sì, fittizia, sì, e non ci sia veramente questa venerazione. In effetti è possibile. Sì. E questo altro commento dice: potrebbe anche non stare facendo finta, e infatti non sono più strambi di altre religioni, e forse meno, perché almeno ora scelgono cosa venerare anziché farselo inculcare dai genitori. L'unica ragione per cui nessuno dice la stessa cosa dei cristiani, dell'indù o dei musulmani è che i loro personaggi dei cartoni animati sono più vecchi. Se qualche animatore fosse venuto fuori con l'idea di un elefante compassionevole con qualche braccio in più nel futuro, insomma, o al giorno d'oggi, e qualcuno avesse venerato, tu diresti la stessa cosa se non avessi mai sentito parlare di Ganesha? Pienamente d'accordo, in effetti è un punto di vista interessante, quindi non bisogna sputare su questo culto rispettabilissimo, degno di essere, insomma, venerato come tutti gli altri. Assolutamente. Ecco, no? Anzi, infatti, tu secondo me questa sera andrai, infatti, su Google e digiterai Gadget. Ma infatti guarda, ecco, questa storia dei Gadget mi sta eccitando. Sì, che fra l'altro forse ho pronunciato male, è Ranch, non Eckworth. Mi sa che ho detto, perché così lo trovate con più facilità. Ecco, non essere blasfemo Ranch verso... significa chiave inglese, per l'appunto. Non essere blasfemo verso la Gadget, esatto, no, verso la dea. La dea... No. Ovviamente non ha status legale. Ufficiale, assolutamente. Appunto, quindi ci sono poche informazioni, però effettivamente ci sono tantissime fotografie di questo gruppo di persone e tante foto di queste immagini attaccate a giro per le città. Ecco. Però va bene, comunque è un culto. Non riesco a capire come si sia passati appunto al culto, se sì, nel caso sì, sì, in cui... Ma in ogni caso, comunque, già il fatto che si faccia per questo e non per altri personaggi, effettivamente, certo, gli attribuisce un... Cioè, è strano comunque, no? Cioè, sì, cartoni animati ce n'è a bizzeffe, c'è un sacco di anime giapponesi, ormai spopolano, quindi... Però non avevo mai sentito dire di addirittura un culto fatto a questo livello. Sì, ecco, sì, sì. Allora, l'unica spiegazione che riesco a trovare è l'operato di Satana, quindi sto per cominciare, sì, a credere che esista. Sostanzialmente sono d'accordo, sì. Benissimo, novità assoluta, veramente sorprendente, da uovo di Pasqua, no? Come giustamente, sì, è periodo. No, perché dopo la chiesa del subgenio ho pensato sarà il caso di parlare di religioni serie, finalmente. Giusto, quindi ho pensato di... Va bene, bene, allora andiamo con l'ultimo pezzo della giornata. Andiamo in tranquillità, ecco, questo è un pezzo che del nostro concittadino Stefano Bollani, si intitola Il mare si è fermato, dall'album Smat Smat del 2003. Ecco, la cosa bella è che insomma il mare si è fermato, sarebbe qualcosa che ci auguriremmo tutti, perché specialmente in questo periodo, con tutte le cose che sono successe, non solo il Costa Concordia ma anche i bidoni sversati con contenuto tossico vicino alla Gorgona, ma e poi ricordiamo il 10 aprile la ricorrenza del Moby Prince, della tragedia del Moby Prince, già. Quindi molto recente. Bene, ascoltiamoci questo bel pezzo tranquillo. Bollani. Non c'è un filo di vento, eppure le cose continuano a muoversi. Bel pezzo calmo, rilassante, giusto per l'ultima parte della trasmissione. Che dire? Bollani e Bollani. Bollani e Bollani, senz'altro. Sì. Il mare si è fermato, noi non ci fermiamo ancora. Ancora qualche minuto. Sì. Abbiamo qualche segnalazione. Prima un'ultima notizia che in realtà è di qualche, diciamo, di 3 settimane fa, però ci tenevo a raccontarvi questa faccenda che è successa proprio qui a Pisa. Allora, apparve il 23 marzo un titolo nel Tirreno, non so se anche nel Tirreno cartaceo, sicuramente nel Tirreno online: squilibrato si getta in Arno. Uno squilibrato ieri intorno alle 10 si è gettato in Arno, dove ha nuotato tranquillamente prima di essere recuperato da una squadra dei vigili del fuoco per essere poi consegnato alla polizia. Il giovane, 29 anni, di Firenze residente a Cascina, aveva dato segni evidenti di squilibrio già prima in Corso Italia, quando era stato visto camminare con uno scolapasta in testa. Risuona qualcosa agli ascoltatori? I due poliziotti di quartiere in servizio avevano fatto intervenire il 118, ma il giovane si era rifiutato di salire sull'ambulanza, quindi ha continuato a camminare per le strade del centro fra la curiosità della gente. Secondo alcune testimonianze, il giovane, giunto all'altezza del ponte di mezzo, avrebbe inveito contro il premier Monti e poi sporgendosi sul fiume, lo scolapasta che aveva in testa è precipitato in Arno, così si è gettato nel fiume. Sono stati nuovamente chiamati i soccorsi e sul posto sono arrivati un'ambulanza e i vigili del fuoco. Ah, ma quindi è stata un'azione di salvataggio per lo scolapasta. Esatto. Si è lanciato per recuperare lo scolapasta. Allora, non so se i nostri ascoltatori hanno ricordato, ne abbiamo parlato in una delle puntate. Qualche giorno dopo non si è fatta attendere una dichiarazione sempre sul Tirreno di Pisa di Stefano Mancini, ministro di culto della Chiesa Pastafariana Italiana, che ha scritto al Tirreno per manifestare tutta la sua indignazione. Mi sono sentito offeso dall'articolo in cui definite squilibrato il ragazzo che si è gettato in Arno per recuperare lo scolapasta che indossava in testa. Vorrei farvi presente che il 29enne è un adepto della nostra religione e portare una scolapasta come copricapo non è altro che il nostro simbolo di appartenenza. Ecco, quindi ma tu ce lo vedresti il nostro Giuseppe Ratzinger a gettarsi in Arno se gli cascasse la mitra nel... assolutamente no. ma infatti poi sul giornale si è scatenato il dibattito, perché c'è chi dice, come Mancini, che questo è una dimostrazione di devozione, di serietà, di coerenza, e chi invece ha sostenuto che mettere a repentaglio una vita umana per recuperare un simbolo religioso non va in accordo con lo spirito, neanche con lo spirito religioso, ecco, quindi, e neanche con quello della Chiesa Pastafariana, perché ad esempio un articolista riportò uno degli otto condimenti della Chiesa Pastafariana, che è: per favore non usatemi per opprimere, soggiogare, scannare o come modo per maltrattare gli altri, ma come ricorda giustamente anche noi siamo gli altri. Quindi si è scatenato un po' un dibattito morale su questa vicenda, che poteva essere una cosa goliardica quasi. Probabilmente invece. Insomma, bene, bene, allora andiamo alla chiusura. Dunque, come prima segnalazione, vi segnalo sabato 14 dalle ore 10 alle ore 18 al Circolo dei Lettori di Via Bogino 9 a Torino, un convegno di studio annuale dal titolo Religione, Ragione e Laicità nel pensiero dei classici, del Centro Studi Piero Calamandrei. Il sito è www.torinolaica.it, dove trovate tutto il programma. Ve lo leggo brevemente. Allora, dalle 10 a mezzogiorno e 30 ci sono delle relazioni, tra cui di Giulio Giorello, Baruch Spinoza, Individuo e Stato, di Carlo Augusto Viano, John Locke, Tra tolleranza e ragionevolezza, e di Gian Enrico Rusconi, Immanuel Kant, La religione nei limiti della semplice ragione. Poi alle ore 12.30 una pausa per il buffet, alle ore 14:30 cominciano le nuove relazioni fino alle ore 18. Ci sarà Pietro Rossi con Voltaire, La tolleranza e il cammino verso la laicità, Luciano Pellicani, La guerra culturale fra Atene e Gerusalemme, il caso dei padri fondatori americani, Gaetano Pecora, Democrazia e religione nel pensiero di Alexis de Tocqueville, Nadia Urbinati con John Stuart Mill e il potere dell'opinione. Ecco, quindi vi invito ad andare, fra l'altro il circolo dei lettori è molto, molto bello, ma ci sono pochi posti, quindi penso che vi convenga informarvi se c'è una necessità di prenotare. Se ci andrei di volata, interessantissimo. Poi la MTO Shah Maghsudi, probabilmente non l'avrò... Meditazione trascendentale. No. MTO Shah Maghsudi, okay. Probabilmente non l'avrò pronunciato bene perché è arabo, insomma islamico. L'essenza del sufismo è una scuola di sufismo, quindi di misticismo islamico basata a Londra, però rappresentanti di questa scuola saranno presenti presso Vradia, libreria esoterica, via Bellegra 34 a Roma, sabato 14 aprile dalle 17 alle 20, quindi un'occasione molto importante per conoscere più da vicino il sufismo. L'ingresso è libero, ma la prenotazione è obbligatoria a un numero dedicato che quindi vi posso dire: 340 96 86 007. Bene, altrimenti domani a Trieste alle ore 8:30 presso l'associazione LAM Il Sentiero in piazza Benco 4 c'è praticamente un seminario di ascensione e guarigione quantistica. Dunque, la dimensione e guarigione quantistica nella Matrix, con intervento pratico dimostrativo sul metodo. Non è un film, non c'entra nulla col film, vero? Purtroppo sì, sì? No, perché la Matrix praticamente sarebbe un'idea simile a quella del film, però diciamo esposta seriamente da gente come Greg Braden e altri che sì, comunque... ma non è un'assurdità in realtà. Non lo è, però è indimostrabilmente possibile. Sì, sì, ecco, diciamo. Bene, comunque verrà spiegato lo spazio quantico, l'attuale trasformazione planetaria e le frequenze di luce nelle multidimensioni. Messaggi guida per vivere al meglio questi momenti di trasformazione interiore nel corpo, nell'anima e nel quotidiano. Conferenze di Arlene Side, operatrice di guarigione e trasformazione quantica, cure di luce e sene e lettura dell'aura, terapeuta del suono. Bene, vabbè, c'è un'email arlinesoundlight@libro.it, suppongo, per le informazioni, per sì, prenotazioni, sì. Forse. Ma il problema della Matrix brevemente è che loro pretendono di invece di dimostrarlo parlando di fisica quantistica, mentre invece appunto non c'è non c'è quasi relazione. Non saprei se sarà mai dimostrato. No, infatti. Sì. Domani, venerdì 13, comincia una serie di tre lezioni sulle celebrazioni laiche qui a Livorno. L'indirizzo è via Pieroni 27 al terzo piano presso l'Unicobas. Appunto, il primo incontro è domani alle ore 19 sui riti di passaggio e la figura del celebrante. E appunto questa serie di lezioni sarà tenuta proprio da Valentina Calvelli, che è stata ospite di Testa Croce Show nella sesta puntata, sì, parlando proprio di celebrazioni laiche. Sono previsti per gli interessati esercizi ed esempi di pratici. Saranno tre incontri. Poi il successivo sarà sabato 21 e l'ultimo venerdì 27. A costo di 10 euro per tutto il ciclo di incontri. Sì. Dunque, poi il costo è diciamo un contributo, donazione all'associazione che la ospita. E poi altrimenti dal 14 al 15 aprile a Firenze lo sciamanesimo come pratica spirituale, un corso teorico pratico di introduzione allo sciamanesimo condotto da uno sciamano nepalese, Bola Nat Banstola, coadiuvato dalla moglie Maria Rosa Genitrini. Due giorni in cui sarà possibile entrare in contatto... lo so, hanno dei nomi un po'... fonte di inquietudine per richiamare una nostra domanda. Sì, esatto. Due giorni in cui sarà possibile entrare in contatto con le antiche tradizioni del Nepal, la via sciamanica, attraverso il suono del tamburo, la danza dei cinque elementi e l'antica cerimonia della Karga Puja. È consigliato abbigliamento comodo, portare un tappetino, una coperta, una bandana, carta e penna. Il corso si terrà presso il centro Harmony, in via del Romito 8DR, in interno R, sì, a Firenze, zona statuto. Il corso è a numero chiuso, quindi le iscrizioni sono consigliate, rimarranno aperte fino a esaurimento posti. Il sito è www.ilquarzorosa.org. Comunque, a parte gli scherzi, mi è venuto da ridere, ma in realtà mi sembra anche una cosa interessante. Io trovo molto affascinante lo sciamanesimo. Sì, anch'io. Quindi, in effetti... ma quasi quasi ci potrei anche andare. trovo molto affascinante che il fatto che c'è sempre una bandana quando si parla di sciamanesimo. Non so perché, abbiamo segnalato anche altri incontri nelle puntate, c'era sempre la bandana. Non ricordavo. Sì, ma forse perché l'ha lanciato Berlusconi. Forse sì. E infine sabato 14 alle 17:30 alla Gaia Scienza, libreria qui a Livorno, ci sarà la conferenza della dottoressa Laura Salvadori sulla sua tesi di studio, che ha vinto la borsa di studio dell'UAR, Unione Atei Diagnostici Razionalisti, del 2011, sul tema cattolici, praticanti, non praticanti e atei, un confronto psicologico. L'ingresso è libero e gratis, è gratuito. C'è anche l'aperitivo? No, non c'è. Peccato. Vabbè. Bene, noi abbiamo... abbiamo concluso i nostri argomenti per stasera. Vabbè, abbiamo concluso anche il tempo, anzi siamo riusciti anche a sforare un attimino, ma tanto oggi, come avete capito, manca la trasmissione di Jacopo Mascagni dietro l'angolo. Sì, che diciamo che ha chiuso la stagione. Sì, senz'altro, sì. Per motivi lavorativi. No, non ha chiuso la stagione, assolutamente. Bene, ma insomma, comunque. No, anzi, no, ci fanno segnarci dalla regia, ci dicono. Ah, ecco. Riprenderà a martedì 17 e sappiamo l'orario anche. Dalle 21 alle 22. Benissimo. Quindi facciamo uno spostamento di palinzesto. E anche noi ci spostiamo, come abbiamo già detto, alle 19:30. E fino alle 8:30. Sì. Dopo di noi va in onda Arena Top Again, sì, che d'ora in poi andrà in onda invece dalle 8:30 alle 9:30. Dalla prossima settimana. E quindi noi vi salutiamo, ricordiamo i nostri contatti: testocroceshow@gmail.com, testocroceshow il contatto Skype. E vi diamo appuntamento sul blog testacrocesshow.blogspot.com, dove ci sono tutti i podcast, sì, tranne quello di oggi. Esatto. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana con altre sorprese, con altri, insomma, novità assolute, altre domande e anche altri ospiti, no? Perché ci saranno anche degli ospiti nelle prossime puntate. Sì, in generale. Sì. E arrivederci a tutti. Ciao.